ad alta voce. Ignazio Oliva legge L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf. Traduzione di Ada Maria Terziani. La pesca. Era impossibile, naturalmente, che qualcuno volesse tanto bene alla bimbetta di Scrolica quanto gliene voleva suo padre. Tuttavia bisognava riconoscere che il vecchio Ula, quello che faceva le reti, era anche lui un suo ottimo amico. La loro amicizia era cominciata così. Clara Gulla, un giorno di primavera, si era messa a sistemare una lenza fissa nel Tvatbak per prendere le troterelle salmonate che vi passavano. E andò meglio di quel che si sarebbe pensato. Già il primo giorno tornò a casa con un paio di pesciolini. Ne fu molto fiera, come si può ben immaginare, e ricevette complimenti perfino da sua madre per essere riuscita a portare a casa di che mangiare a soli 8 anni. Per incoraggiarla, Katrina le lasciò pulire e arrostire il pesce. E Jan ne mangiò e disse che un pesce così non l'aveva mai assaggiato. Ed era certo la pura verità, perché le trote erano talmente spinose, secche e bruciacchiate che la bambina stessa si aspettava un po' con buone. Ciò nonostante, Clara Gulla non perse la sua passione per la pesca. Si alzava la mattina alla stessa ora di Jan. Infilava sotto il braccio un cestino per il pesce, mentre le esche da mettere sui suoi ami corrosi le teneva in una scatoletta di latta. Così equipaggiata, si dirigeva al Tvatbak, che scendeva danzando dalla montagna in precipitose cascate e lunghe rapide, allargandosi a tratti in acque stagnanti, immobili e cupe, oppure limpide e trasparenti quando riprendevano a scorrere lentamente su un fondo di sabbia e di pietre lisce. E pensare che la fortuna finì già dopo la prima settimana. Le esche sparivano dalla maggior parte degli ami, ma nessun pesce rimaneva preso al loro posto. La bambina trasferì i suoi arnesi dalle rapide alle acque stagnanti, dalle acque stagnanti alle cascate. Provò a cambiare gli ami, ma non ci fu nessun miglioramento. Chiese ai ragazzi di Borie e di Eric di Falla se erano loro che si alzavano all'alba e le portavano via i pesci, ma a malapena si degnarono di rispondere a una simile domanda. Nessun ragazzo si sarebbe mai abbassato a prendere pesci nel Tvatbak. C'era tutto il lago Dufsio per pescare. Era roba da ragazzine che non potevano scendere giù alla riva del lago, correre in cerca di pesci nei ruscelli del bosco. Ma per quanto sprezzante fu la risposta dei ragazzi, Clara non vi credeva più di tanto. Doveva pur esserci qualcuno, sa, che coltiva i pesci dagli ami, perché erano veri ami che le metteva nel Tvatbak, mica delle spille piegate a uncino. Alla fine, per chiarire la faccenda, una mattina si alzò più presto di Jan e di Katrina e corse al ruscello. Arrivata nelle vicinanze, rallentò la corsa e avanzò a piccoli passi, facendo attenzione a non scivolare sulle pietre e a non far rumore tra i cespugli. E pensate un po', le sembrò di diventare di sasso quando, avvicinandosi alla riva del ruscello, scoprì che aveva proprio ragione. C'era un ladro di pesci, esattamente nel posto dove lei aveva messo gli ami il giorno prima, e li stava controllando. Ma non era un ragazzo, come si era aspettata. Era un uomo adulto. Stava chino sull'acqua, e in quel momento tirava su un pesce. Lo vide luccicare quando lo tolse dall'amo. Clara Gulla non aveva che 8 anni, ma paura non ne aveva mai avuta. Ed ecco che si precipitò allo scoperto, cogliendo il ladro sul fatto. «Ah! Siete voi! Siete voi che venite qui a prendere i miei pesci!» disse. «Per fortuna che vi ho sorpreso una buona volta, così finirà questa ruberia!» L'uomo sollevò il capo, e Clara Gulla poté vederlo in viso. Era il vecchio delle reti, che abitava in una delle capanne vicine. «So bene che sono i tuoi arnesi questi qui!» Le rispose con grande calma, senza arrabbiarsi e senza diventare violento, come fa in genere la gente che viene sorpresa. «Ma come vi permettete di prendere una cosa che non è vostra?» chiese la bambina. Allora l'uomo la guardò, e quello sguardo Clara Gulla non lo dimenticò mai. Le parve di vedere nel fondo di 2 voragini vuote, spalancate, da dove la guardavano 2 occhi semispenti, al di là della gioia e del dolore. «Beh, vedi, io so che tu ricevi dai tuoi genitori tutto quello che ti è necessario, e che peschi soltanto per divertimento, ma a casa mia moriamo di fame.» La bimba si fece tutta rossa in viso, senza ben rendersi conto di come mai adesso era lei che provava vergogna. Il vecchio delle reti non disse più nulla, raccolse il berretto che gli era caduto quando si era chinato sugli ami e se ne andò. Clara Gulla non disse niente, neppure lei. Un paio di pesci stavano lì a dimenarsi sulla riva, ma non li raccolse. Rimase un po' di tempo a guardarli, poi li spinse col piede, facendoli cadere in acqua. Tutto il giorno la bimba si sentì scontenta di sé, senza capire il perché. In fondo, Non era mica lei che aveva agito male. Ma non poteva togliersi dal pensiero il vecchio delle reti. La gente diceva che un tempo era stato molto ricco, che era padrone di 7 fattorie, ognuna delle quali valeva 4.000 lire di falla. Ma poi aveva perso tutto in qualche misterioso modo, e ora era poverissimo. Comunque, il mattino seguente, Clara Gull andò al ruscello, a controllare di nuovo i suoi ami. Questa volta nessuno era venuto a prendere il pesce, e lei ne trovò uno ad ogni amo. Staccò le trote e le mise nel cestino, ma non le portò a casa. Camminò invece dritta, verso la capanna dell'annodatore di reti. Il vecchio stava fuori a spaccare la legna quando Clara Gull arrivò col suo canestro. Si fermò presso la scaletta dello steccato e prima di salire lo guardò. Era proprio malconcio, vestito di miseri stracci. Non aveva mai visto neanche suo padre con un simile aspetto. Aveva sentito dire che delle persone benestanti l'avevano invitata a vivere con loro fino alla fine dei suoi giorni. Ma lui aveva invece preferito trasferirsi presso una nuora che abitava lì nelle Askedalar, per aiutarla quanto poteva. Aveva tanti figli piccoli lei, e il marito se n'era andato lontano molto tempo prima. Ora doveva essere morto. «C'era una gran quantità di pesci oggi sugli ami», gridò la bimba stando lì sulla scaletta. «Ah!» fece una delle reti. «Ti è andata bene a te?» «Vi do volentieri tutto il pesce che prendo, purché sia io a incaricarmi della pesca», gli si avvicinò e vuotò a terra il cestino davanti a lui, aspettandosi che il vecchio delle reti si rallegrasse e la lodasse, abituata com'era a vedere Jan, suo padre, rallegrarsi di tutto quello che lei diceva o faceva. Ma il vecchio prese la cosa con la stessa imperturbabilità con cui prendeva tutto il resto. «Tieniti pure quello che è tuo», disse. «Siamo così abituati a patir la fame qui, che possiamo ben fare a meno di un paio di pesciolini». C'era qualcosa di particolare in quel povero vecchio, e Clara Gull non voleva darsi per vinta finché non fosse riuscita a farsi voler bene. «Potete prendere voi i pesci dagli ami e metterci le esche. Potete fare tutto voi», propose. «No, sai, non voglio toglierti il divertimento», disse il vecchio. Ma Clara Gull continuava a star lì. Non voleva andarsene prima di aver trovato il modo di farlo contento. «Volete che passi qui a prendervi ogni mattina e che tiriamo sugli ami insieme e che ci dividiamo a metà del pesce ciascuno?» chiese. Allora il vecchio smise di spaccar la legna. Volse verso di lei quegli occhi strani, spenti, e il bagliore di un sorriso passò sul suo volto. «Sì, ora mi hai preso nella tua rete», disse. «A questo non dirò di no». Agrippa. La bimbetta era davvero straordinaria. Non aveva più di 10 anni quando seppe tener testa addirittura a Agrippa Prastberg in persona. Solo al pensiero del suo aspetto, con quegli occhi gialli cerchiati di rosso sotto le sopracciglia arruffate, l'orribile naso tutta gobbe e bitorzoli, la grande barba ispida che spuntava intorno alla bocca come una spazzola, le rughe profonde sulla fronte, il lungo corpo dinocolato e il lacero berretto militare in testa, si deve riconoscere che chiunque avrebbe avuto paura di avere a che fare con lui. Un giorno la bimbetta sedeva tutta sola sulla lastra di pietra davanti alla porta della casetta, mangiando il suo pane burro della merenda. Ad un tratto vide venire sulla strada un uomo lungo lungo, e non ci mise molto a riconoscere che si trattava di Agrippa Prastberg. Ma non per questo perse la sua presenza di spirito. Per prima cosa, fece a metà la fetta di pane, mise le parti imburrate una sopra l'altra per non sporcarsi, e le nascose sotto il grembiule. Dopodiché non se ne scappò via. Ne cercò di chiudersi in casa sprangando la porta, perché sapeva che tanto non sarebbe servito a niente con un uomo del genere. Restò quindi semplicemente lì seduta. La sola cosa che fece fu di prendere il lavoro a maglia che Katrina aveva lasciato sulla lastra di pietra, quando se n'era andata qualche momento prima a portare la cena a Jan, e di mettersi a lavorare facendo ticchettare i ferri. Se ne stava lì, cercando di avere l'aria più tranquilla del mondo. E intanto lanciava sguardi furtivi verso il cancello. Sì, non c'era dubbio. Era proprio diretto da loro. Stava già per sollevare il paletto. Clara Gull si spostò un po' più in alto sulla pietra, e si rassettò le vesti, perché era consapevole che toccava a lei ora vigilare sulla casa. Naturalmente ne aveva sentite abbastanza su Agrippa Prasberg da sapere che non era un tipo da rubare e neppure da fare a botte, purché non lo si chiamasse Greppa e non gli si offrisse del pane e burro. Inoltre non si fermava mai molto in un posto, a meno di non avere la sfortuna di tenere in casa una pendola dalle carliana. Agrippa andava in giro per il paese a riparare orologi, e se gli capitava di entrare in una casa dove trovava una di quelle vecchie, alte pendole, non si dava pace finché non riusciva a togliere il meccanismo per vedere se c'era qualche guasto. E i guasti c'erano sempre. Allora veniva preso dall'assoluta necessità di smontare tutto il meccanismo. E potevano passare parecchi giorni prima che lo rimontasse, e per tutto quel tempo si era costretti ad alloggiarlo e a nutrirlo. Il peggio era che dopo che Prasberg aveva messo le mani su un orologio, questo non voleva saperne di andar bene come prima. E almeno una volta all'anno bisognava affidarlo alle cure di Prasberg, altrimenti smetteva del tutto di funzionare. Il vecchio si sforzava in tutti i modi di fare il suo lavoro con coscienza e onestà, ma non c'era niente da fare. Gli orologi rimanevano danneggiati. La cosa migliore, quindi, era di evitare che quell'uomo venisse a contatto con il proprio orologio. Clara Gulla lo sapeva bene, ma non riusciva a pensare a nessuno stratagemma per salvare la pendola dalle carliana, che stava lì, a ticchettare dentro la casetta. Prasberg era a conoscenza della sua esistenza e già da molto tempo la teneva d'occhio, ma le altre volte che era passato c'era sempre Katrina a impedirgli di entrare. Giunto alla casetta, il vecchio si fermò proprio davanti alla bimba, batté forte il bastone a terra e declamò: «Ecco qui Johann Hütter Agrippa Prasberg, tamburino di Sua Maestà Reale e della Corona. Ha affrontato a pie fermo palle di cannone, polvere da sparo e non ha paura né di angeli né di diavoli. C'è qualcuno in casa?» Clara Gulla non ebbe bisogno di rispondere. Passandole davanti, Agrippa entrò dritto nella casetta e diresse subito i suoi passi verso il grande orologio dalle carliana. La bimba gli corse dietro e cercò di convincerlo che la pendola funzionava perfettamente. Non andava né avanti né indietro. Non aveva proprio bisogno di essere riparata. «Come può andar bene un orologio di cui non si è occupato Johann Hütter Agrippa Prasberg?» commentò il vecchio. Era così alto, ma così alto che poté aprire la cassa dell'orologio senza salire su una sedia. L'attimo dopo aveva già staccato il quadrante e il meccanismo e li aveva posati sulla tavola. Clara Gulla strinse i pugni sotto il grembiule e le vennero le lacrime agli occhi, ma non aveva alcun potere di trattenerlo. Prasberg aveva urgenza di rendersi conto di quale guasto ci fosse nell'orologio prima che tornassero a casa Jan o Katrina e che gli dicessero che non c'era assolutamente nessun bisogno di nessuna riparazione. Aveva un pacchetto con arnesi e vasetti di grasso, lo svolse in tutta fretta e lo fece con tanta foga che parte del contenuto rotolò sul pavimento. Clara Gulla ebbe l'ordine di raccogliere tutto quello che era caduto. E chiunque abbia visto Agrippa Prasberg capirà bene che lei non poteva far altro che obbedire. Si chinò a terra e gli porse la seghetta e un cacciavite. «Non c'è nient'altro?» ruggì il vecchio. «Devi essere fiera tu di poter servire un tamburino di Sua Maestà Reale e della Corona da una. «No, non vedo niente», disse la ragazzina. Si sentiva infelice. Infelice e avvilita come non era mai stata. Lei che doveva far la guardia alla casa del babbo e della mamma, ecco che cosa le capitava. «E gli occhiali, allora?» chiese Prasberg. «Devono essere caduti anche loro?» «No», disse la bimba, «qui non ci sono occhiali». E subito le venne un barlume di speranza. E se senza occhiali non avesse potuto far niente all'orologio? Ah, se li avesse perduti! Proprio in quell'attimo li vide dentro al loro astuccio. Erano andati a finire dietro la gamba del tavolino. Agrippa frugava tra le vecchie molle e rotelle dentate che aveva nel pacchetto. E se la fortuna avesse voluto che non riuscisse a trovare gli occhiali? «Non mi resta che mettermi a cercare da me per terra», disse il vecchio. «In piedi tu, giovane contadinella!» La mano della bimbetta si allungò rapida come un lampo, afferrò l'astuccio degli occhiali e lo nascose sotto il grembiule. «Alzati su!» grugnì il vecchio. «Non mi fido di te! Che cos'è che tieni sotto il grembiule? Fuori, fuori, fa vedere!» Clara Gulla protese subito una mano. L'altra l'aveva tenuta tutto il tempo sotto il grembiule. Ora fu costretta a mostrare anche quella, e così Agrippa Prasberg poté vedere la fetta imburrata. Mi sembra pane puro», disse. Si arretrò come se la ragazzina tenesse in mano una vipera. «Stavo mangiandolo quando siete arrivato e l'ho nascosto perché so bene che il burro non vi piace». Il vecchio si mise a carponi per terra, ma fu inutile. Non trovò nulla. «Li avrete certo dimenticati dove siete stati per ultimo», disse Clara Gulla. L'aveva pensato anche lui, ma non voleva crederci. Comunque, non poteva concludere nulla con l'orologio dal momento che gli mancavano gli occhiali. Non gli restava che legare l'involto e rimettere il meccanismo nella cassa. Mentre le voltava le spalle, la bimbetta infilò di nuovo gli occhiali nel pacchetto. E lì Agrippa li trovò quando arrivò alla tenuta di Lövdala, l'ultimo posto dove aveva lavorato e dove era tornata a cercarli. Sciolse l'involto per mostrare che non c'erano, e allora la prima cosa che vide fu proprio l'astuccio degli occhiali. La volta dopo che incontrò Jan e Katrina sul piazzale della chiesa, Agrippa li apostrofò dicendo: «Quella vostra ragazzina, quella furbetta della vostra ragazzina, ve ne darà delle gioie». Ignazio Oliva ha letto L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.